capito? È che c'ha le cinghiette, già lo sai. Dopo un po' di anni diventano rigide e sanno come si stringono. A me sembra quel cavolo di... quando fa così che si piega il nastro interno, mastica quel... come si chiamava una volta per i nastri? Pinch roller, quello gomosetto tondo, che quando diventa appiccicoso si piega il nastro dentro. Poi non me ne ricordo più. Amen. Rambo 2001, 2000 watt, cazzo, della lemme. Aspetta, mi guardo la guida TV per i film. Film, prima TV, non prima TV, prima serata. Dorian Gray, quello nuovo, Escobar, Escobar è bello, 3 minuti inizia. Quello del narcotrafficante. Ah, Pablo Escobar. Stavo guardando questo tipo, questa bella stazione radio anni 80, 600 euro. E... completa l'FT 707, FP 707, FV 707 e l'FC 707. Su Facebook c'è, nel sito Radio Mercato Italia OMCB SWL BCL. Come dire, tutto in un mobile rapide, tutto installato. Sempre robanza e guerra, così è. O no? No, scherzo, anni 80-90? Era 80-90, l'FT 707 dovrebbe essere una cosa del genere. E è bellino, c'è l'alimentatore, l'apparecchio sotto, poi c'è la memoria e poi la cosa di sopra non ho capito cosa cavolo sia. E poi c'è il microfono, tutto completo, sarà 600 euro. 600 euro, vabbè, non ce l'ho presente. Questo film, Javier Bardem fa Pablo Escobar e Penelope Cruz fa Virginia Vallejo, così si dicevo. Questo non l'ho mai visto. Può essere interessante, sta iniziando adesso, 9.30, sì, quasi quasi Antonio, io chiudo e... ci sentiamo un'altra volta, poi per quella cosa ci mettiamo d'accordo, però ricordati che quello che mi hai segnalato tu mi pare che sia la versione complicata, come dire, ne parliamo in altra sede, ci vuole quello semplice, per non dire simplex. Quella infatti, se poi noi questi giorni vogliamo fare un giro, a me c'è una serie piena di oro, cazzo, sai quanto vale, 1 miliardo... di dollari, solo che tra Giove e cosa, e Saturno è il più grande giacimento d'oro che c'è in un asteroide, tra Marte e Saturno, direbbe 1 miliardo a ogni abitante della Terra. Antonio, ma cos'è questo bip che sento di te? La televisione c'è, sta guardando il programma Simona, non ho capito cosa diavolo sia. Ah, saranno censurando le parolacce, sì, quando vanno a intervistare gente che reagisce male. C'è un break, mi pare, avanti. Ciao, sono Andrea, bentrovati. Scappa, ciao Andrea, Marco da questa parte in compagnia di Pomponio. Io stavo per scappare a vedere il mio film. Antone, se vuoi, c'è la compagnia, mi... avanti Antonello per Andrea. Ciao Andrea, beh, hai sentito. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Vabbè, l'avete seguito il proclama di Putin? Baba, cosa è successo? Cosa è successo? Ha dichiarato riconosciute le due repubbliche, praticamente siamo sull'orlo della guerra con l'Ucraina. Ecco, a conci siamo Antonè. Fai le scorte alimentari, acqua, cibo, medicine. Non ho capito cosa ha fatto Putin. Ha riconosciuto, vabbè, con le due repubbliche piccoline, cioè un giorno le ha riconosciute. No, le ha riconosciute oggi, ha firmato per il riconoscimento, prima non le aveva mai riconosciute. Alla fine di un discorso in cui ha detto che la NATO gli ha messo i missili sotto il sedere e che adesso basta. E lui vuole adesso, ho capito, prendersi l'Ucraina, hai capito, quindi prima è furbo mio, non trovare così. Adesso prima fa scornare quei due, l'Ucraina con Donbass, dopo che è capito che non ce la farà più i primi russi, allora interviene lui e gli dà la benedizione del Bertubi all'Ucraina. Poi succederà che in pratica ci metteranno, arrivano gli americani con l'Inghilterra, capito, ci sarà un bel casino di lì, hai capito? Quindi è macula. Poi vabbè, la Cina è alleata della Russia, quindi che ce ne diceva quella. Ci mancano solo gli africani adesso, che vengano come facevano una volta alla seconda guerra mondiale, che venivano gli africani per combattere con i francesi. È così. No, aspetta Antonio, a parte il delirio tuo, non ho capito cosa volevi dire. Sì, l'ho vista adesso, 21:21. Putin viola il diritto internazionale, firma l'annessione del Donbass. Quindi c'è annessione alla Russia, si è preso un pezzo al Donbass, l'Europa è pronta a reagire, si muove l'ONU, Xiaomi, fatta. Altro è Covid, per carità, guarda, non sanno come passare il tempo. Cioè, non contente le nazioni di una pseudo, vabbè, influenza, epidemia, epidemia chiamiamola. Ci vuole una bella guerra dopo una, cazzo, roba delicata, mi. Ma siccome sono un po' fanatici i russi, così come gli americani, noi siamo in mezzo e ci passiamo noi poi. Antone, non è tanto da scherzare, io ero un po' preoccupato per questa storia. Vai Andrea. Capo, è così, tutti speravano che in realtà ci fosse un incontro anche tra Biden e Putin, invece lui li ha giocato d'anticipo e adesso aspetta e vede se si spacca l'Occidente. E adesso vediamo se arrangeranno, dovete dire. Noi abbiamo bisogno del gas russo, quindi ci tira il rubinetto e siamo a posto. E poi noi il gas in Italia ce l'abbiamo, tutto pieno di gas. Bastava pensarci da prima, invece perdeva. Cosa sta dicendo? L'ENI, e se lo vendeva fuori, a posto di venderlo in Italia, perché se lo vendi in Italia te lo pagano a cazzata il gas. Hai capito cos'è il discorso? Adesso stavano fregati. Andiamo a fare le titolazioni nuove, pompare un bel po' di gas e noi siamo a posto. No Antone, non è così che cosa siamo pieni di gas, sì, dalle scorregge siamo pieni di gas. Almeno io sì, mi potrei fare l'impianto a gas personale. Vabbè, non è una bella... che palle, guarda. Quando è roba vicina a noi è un po' più seccante. Boh, senza parole, vabbè. Usiamo le candele, Marco, altro arriveremo a quello, vedremo le candele, mi fa poco, rimaniamo senza luce, senza niente, quindi usiamo luogo le candele e se la biglia in culo. Poi che si ammazzano tra loro. Il fatto che ci abbiamo tutti nel Mediterraneo, hai capito? Ci sono le navi russe, i sommergibili russi, poi ci sono quelli americani, cosa dire, quelli ci passiamo per forza anche noi, perché ci abbiamo le basi lì in Sicilia. Meno male alla Maddalena non c'è più niente, se no guai. Capa, ma pensate alla Libia dove ci sono i russi e i turchi adesso, noi siamo meglio circondati, non è che ce la passiamo benissimo, abbiamo lasciato troppo spazio. sì, Antonio, non è così, dice, lasciamo che si scannino tra di loro, ci siamo noi in mezzo, mi. E non è lontanissima nemmeno l'Ucraina, cioè, il Mediterraneo, lascia perdere, Antonio, aspetta che sto guardando, c'è quel sito tedesco che vende razioni d'emergenza, volevo vedere se, il segnale brutto è quando finiscono le scorte, mi vuol dire che la gente è corsa ai ripari, non ancora è disponibile. Buon sapersi. Ah, vai, vai. Già le scotte ti puoi fare alimentare. Andiamo adesso. Uia. E facciamo le razioni come i militari. Carne secca. Carne secca quando ti va bene, no, queste sono reazioni Energy 5, si chiamano Energy 5, sono, durano 20 anni, è tutta roba che ti permette di sopravvivere proprio se sei senza mangiare, senza alcun tipo di alimento. Devi avere un minimo di acqua naturalmente, se no muori lo stesso. Antonello la fa facile, per lui è tutto, ma cosa vuoi che succeda? Fotti dinde, siccome non ci sono armi letali adesso mi, per carità di Dio. Beh, cazzo vuoi ti dica, vediamo lei, ci pisciamo sopra i russi. Guarda che i russi sono cattivi, sono sempre, è come se stessero, anche i poliziotti, li vedi che sono sempre con quella mimetica bianca e nera, il giubbotto, sono sempre come se fossero in un perenne stato di preallarme, come di guerra, quelli ci fanno il culo a strisce. Ciao, sono il gas del Rino, non ti preoccupare, come facevano in Siria, capito? Non ci vuole molto mi ammazzare qualcuno. Non c'è bisogno di avere tutte queste armi, basta un po' di gas nel vino, vedrai come facciamo in Siria. Già te lo ricordi anche tu. In Siria, cioè come? Non me lo ricordo, ero distratto. Usavano il gas nel vino per ammazzare i ribelli, i russi, troppi russi. Per Assad, quindi usavano quei gas e ammazzano le persone, non c'è bisogno di, come mosche ci ammazzano. No, i russi ormai hanno delle armi super sofisticate, ho sentito che hanno la bomba convenzionale più potente del mondo e poi c'hanno marini che possono creare uno tsunami radioattivo alto mezzo chilometro, cioè una di quelle bombe lanciata da un sottomarino che va a velocità sott'acqua ipersonica, 400 km all'ora sott'acqua, si può far saltare la Florida in un colpo solo. Ah, la bomba, sì, convenzionale più potente, praticamente non so chi l'abbia copiata da chi. Allora, gli americani hanno la MOAB, la Mother of All the Bomb, e i russi hanno fatto Father of All the Bombs, sì, è vero. Un bel petardo è quello, a Capodanno quello è bello, mamma mia. E vabbè, ma quello che si teme sono davvero altre cose, che si arrivi a proprio una guerra mondiale con tanto di... Allora siamo fritti proprio, nel vero senso della parola. Ce l'andiamo in Antartide, ce l'andiamo dove ci sono i cosi, gli UFO ci sono, nascosti sottoterra. Sì, il disco volante della cosa, mi dà la padella nella brace. Davvero, mi... siamo messi bene, cazzo, che dobbiamo andare a casa a comprare, andare al supermercato a comprare il pane, bisogna andare nei cosi come una volta, in tempo di guerra. L'unica cosa che c'hanno in Russia di buono, sai cos'è? Che sta sempre nevicando lì, non gli puoi fare nulla. Se ci vai come siamo andati alla seconda guerra mondiale, siamo già morti noi quando arrivare a Mosca. Con le scarpe di cartone, cacchio. Sì, ai tempi della seconda guerra mondiale, cioè, i soldati perdevano i piedi dal congelamento. E comunque anche i tedeschi, cioè, credevano di conquistare tutta la Russia, poi la Sussa che hanno preso. Mamma mia. Vabbè. I tedeschi però almeno vedi erano attrezzati bene e senza scherzi gli italiani avevano gli anfibi di cartone pressato, i carri armati italiani erano poco più che scatolette di sardine, cioè rispetto ai cari russi e tedeschi facevano ridere. Sì, ma noi ci avevamo vestiti il Lanital, avete sentito come parlare il Lanital, quel tessuto che si otteneva dal latte, qualcosa del genere. No, non ce l'ho presente, aspetta, mi sfugge. E quindi Antonio, allora partiamo volontari, andiamo in Russia a combattere contro i russi ovviamente. Io porto pane e salame e tu porti il vino, ok? Facciamo il picnic. Ehi, già lo credo. Facciamo così, facciamo. Quando confrontiamo il russo, tu vino e noi vodka. Tu vino e noi vodka. Sembra che ce l'abbiamo in curvace. No, vabbè. Comunque, se, sì, non... Poi ho visto una notizia fresca, freschissima, qua dice, il sito riportava 21-21, io non, su ANSA, sulle notizie ANSA non c'era addirittura questa notizia, ma ancora più recente. Conzisemmo. Stai tranquillo, Marco te la accoglie subito se succede qualcosa, perché se ti ricordi bene quando è successo che è arrivata quel missile dalla Libia, per sbaglio, anzi ne avevamo mandato due Gheddafi, non ti ricordi che passavano gli aerei a Maletta, no? Qua sotto dalla parte di Alghero, per questi lavori sono usciti, ma massimi, io era da parecchio non volevo roba militare in giro. Da lì ce ne accorgiamo, non ti preoccupare, ci passano sopra, a Maletta. Ah, la volta che Gheddafi ha lanciato i due razzi o missili a Lampedusa, che non sono nemmeno arrivati, sono esplosi al largo. Sì, ma quelli erano fischioni, tipo quelli che vengono in cartoleria, capito? E ci sono missili a lunga gittata, altro che quelli, e quelli erano giocattoli, quelli libici. C'erano missili, vabbè, parlo di roba piccola, poi quelli intercontinentali ti fanno da un continente all'altro in quant'è? Una volta gli ICBM erano 30 minuti dalla, ci mettevano questi supersonici tipo Corea del Nord ci metteranno anche meno tempo. Dai, è finita in fretta, sarà finita, ce andiamo al creatore in fretta. Vabbè, dipende da che parte per primo mi manco, lo sai. È tutto da vedere adesso, non penso che convenga nessuno di nella Russia, tanto meno gli americani fare una coordinata del genere. Ci perderebbero entrambi, capito? Quindi, a parte i monti, capito, l'economia se ne va a casino e torneremo come la volta ai tempi preistorici, te lo dico io. Sì, non conviene a nessuno, ma la stupidità umana è sconfinata davvero. Speriamo che se si mette a mezzo l'Europa sia una cosa localizzata, però se così lì fanno a chi ce l'ha più lungo, capito? Nessuno dei due vuole cedere, e così scoppiano le guerre. Nessuno dei due vuole abbassare la cresta, capito? Vabbè, ormai l'inizio del film è perso, quindi pazienza, mi guarderò altro in TV. Ti prendi Andrea? No, è un bel casino, anche perché dal discorso che ha fatto Putin oggi, che ho seguito un pezzo, lui ha detto che la Russia non è stata mai sconfitta quando attaccata dall'esterno, ma Napoleone, nei nazisti ci sono riusciti, e soprattutto ha detto che non vuole la NATO alle porte di casa, quindi loro stanno difendendosi adesso per la pellaccia, quindi non c'hanno niente da perdere, mentre gli americani parlano di sanzioni, loro parlano di guerra vera, capito? Guerra proprio col capo di battaglia. Sì, una bella scocciatura. E Putin poi, a mio avviso era un fetentone, mi pare fosse un ex KGB, KGB, no? Quindi già, insomma, non è proprio una personcina, vabbè. Va bene, speriamo bene che comunque sia un braccio di ferro, un esibizione di auguriamoci che si risolva a parole. Comunque vada, la colpa di Pomponio, la colpa è sempre di Pomponio. Ah, quello già è vero, è che Emilio Ferri è ormai messo male, se non avrebbe detto stanno attaccando. Mi ha fatto dire Berlusconi quando, per dubitare, quando ha detto al giudice: signor giudice, guardi che non facevamo di queste cose noi, dice, a casa mia, anche perché Emilio Ferri, per cavargli il pisello, ci voleva talento di grandimento. Emilio Ferri sapeva di Menagramo, poi, come lui diceva. Sì, no, per le torri, mamma mia, pindaccio. Pindaccio davvero. No, vabbè, poi Emilio Ferri ce l'avevo sempre un po' qua per questo servilismo per il suo padrone, d'altronde, no? Berlusconi. D'altronde, i soldi arrivavano da lì, lui era un suo suddito. Tipo cortigiano, ma era esagerato per lui, quei che ti facevano venire il diabete, da quanto erano servili, e poi uno dei pochi che è finito veramente male, no? Rispetto a tutti gli altri. E poi l'ho perso di vista, sì, invecchiato, non so che casini avesse passato, adesso non mi ricordo se c'entrava con la storia delle di quelle ragazzette con queste festicciole che faceva il bunga bunga, quella roba lì. Era stato condannato, uno dei pochi, lui delle mora, ti ricordi quel giro di escort? Alla fine è qualcuno che dovesse pagare, lo doveva trovare. Vabbè, insomma, il capo espiatorio, il Berlusca è troppo potente, lui non o gli cadevano in prescrizione i processi, allungando a dismisura, no? Facendo rinvii, eccetera. Ma poi mi pare si era fatto delle leggine a Berlusconi a proprio vantaggio. Proprio per auto, come dire, abrogare, come dire, fare annullare certe cose che lui faceva, tipo reati, no? Come aveva fatto il caro Benito, che si faceva le leggi ad personam, no? Si modificava, come si chiamava quella specie di, prima della Costituzione, lo Statuto Albertino, se lo girava come voleva lui, capito, a suo favore. E così ha fatto il Berlusca. In minor misura, però. Esatto, quello è un classico vizietto del potere, no? Anche Cesare, gli imperatori romani facevano così. Tutto doveva essere legalissimo dal punto di vista delle leggi e per fare quello che voleva. Seria, solo che vedi, c'era un conflitto di interesse allucinante per certe cose, allucinante, cioè solo in Italia vedi queste cose, non credo nemmeno in Francia né in Inghilterra, tantomeno negli Stati Uniti. Hai visto, negli Stati Uniti per molto meno ti segano le gambe, come questi scandali di pseudo politici violentatori, poi dopo 30 anni dice, quello mi ha violentato, dopo 30 anni, e le prove dove le prendi? Cioè, si possono inventare qualsiasi cosa per colpire qualsiasi politico. Come si dice, questi del cinema, ma uffa, vabbè, già hai capito, no? Weinstein, quello già non era molto raccomandabile come aspetto, vabbè, non vuol dire nulla. Ho perso il filo del discorso, Antonello, aiutami. Sì, Marco, mi. Mia Gianni, mi, dopo una vita, beh, come butta? Scusate l'entrata in scivolata, dai, ho acceso adesso e ti ho sentito, non so chi ci sia, è vuota comunque. 5 minuti e mi levo dalle palle, dai, un saluto a tutti. Ciao Gianni, Barrato. Ehi, sono in compagnia di Andrea, il nome attivo non mi ricordo, Andrea, non mi ricordo se sei nuovo entrato perché ho CB anche, e Pomponi ovviamente, e Pomponi lo troverà anche fra 1000 anni, e lui è eterno, secondo me anche quando la 27 non esisterà più nell'etere risuonerà la sua ondulazione. Ciao, sei un cattetere per quello. Ciao, buona serata. E quindi vabbè, si parlava di coso, di... In che Putin avrebbe annesso già, non so se l'hai sentito, se stavi ascoltando, là, il Donbass, il Donalcio, come si chiama lì, e quindi molto, molto, un po' troppo col pugno di ferro, mi sembra, scorso Putin. Poi come sempre ci voleva Bidea a buttare benzina sul fuoco e ci passiamo noi che siamo in mezzo. Intanto si passano sempre i bovaracci, i generali spingono i bottoni, danno ordini e poi funziona sempre così, purtroppo. Cazzo. Mi rollo una sigaretta, rimango 5 minuti, vi faccio compagnia. Ciao Alessio, buonasera, ciao Andrea. Niente, dai. Adesso dopo tanto tempo ti risento, Marco, dai. È sempre un piacere. Niente, dai, sotto a chi tocca. Già, molti alti e bassi, sia come, non dico salute, perché non è che, però in certe giornate proprio, e poi il calo del coso, ogni tanto riaccendo, faccio girare le radio, poi sto, o troppo niente, cioè o sto ore in radio, oppure sto mesi che non entro, e vabbè, d'altronde, uno entra quando ne ha voglia non entra. Bene, bene, avanti Alessio. Via, è così. Lui siamo andato bene, ormai noi siamo in Sardegna, poveri ma buoni, cazzo. Ti volevo dire, Marco, che ho visto da poco la cosa a Emilio Ferre, sei all'hotel, se lo vedi lo riconosci più, cazzo, magro, ma sai quello che è magro, c'ha le mani di Sibelo, non le vene di Sibelo, a che punto è arrivato? Figurati, meno male c'è la bandata e c'è anche la compagna ogni tanto a fargli fare la passeggiata. Oh, messo male, io non lo vedo da parecchio. E comunque alla sua età lui non è più un giovincello, quindi c'era arrivato a fondo corsa anche lui, fine corsa. E una novantina di anni, diciamo. Quanto? Una novantina di anni. Non si può lamentare, dai. Non si può lamentare. Sì, c'è un caso che non si può lamentare, con tutto quello che guadagna di pensione, cazzo, 6.000 euro, non gli bastano, cazzo, hai capito? Io quello posso dirlo io, che ciò che mi danno non mi bastava qua, giusto giusto arrivo a fine mese, ma contandomi proprio, da pagare bollette e cose del genere. Lui se ne è fatto del male, lui è abituato a fare rivedimenti, capito? Invece nelle mora ha ripreso a fare il lavoro che faceva prima aveva detto quando era quelle, eravamo messo, dove si dice, a quel prete, che non faceva più niente, che rimaneva povero o cose del genere. Adesso invece ha ripreso a fare il nuovo quel lavoro e va in giro per il mondo, hai capito, per fare serate con gli arabi, sceicchi e roba del genere. Invece Dubiter, quella è stata furbacchiona, si è beccato 10.000 euro da Berlusconi, in più si è aperto, faceva la Aligi e si è aperto un bel ristorante grande a Genova e abita a Coso, abita e in Svizzera. Ah, ma chi? La nipote di Mubarak? La nipote di Mubarak, sì. Invece tutte le altre ragazze gli danno stipendio ogni mese di 2.500 euro, hai capito? Ogni mese, finché c'è, fino alle Balear, come si chiama, quindi sono stipendiate. C'è chi di quelle lavora a Mediaset, chi è tratta non so dove, lavora, gli dà 2.500 euro alla mese. Le oggettine per esattezza. Abbiamo sbagliato tutto, Antonio. Va bene, ormai è tardi per tornare indietro. Andrea, riprendi. No, vi stavo ascoltando con interesse. Sì, è tardi, abbiamo sbagliato tutto. No, c'è un amico che diceva, non ho capito tutte queste cose, basta che sei più gay, sei più cosa sei, più fai, più per le donne è un'altra cosa, più fai carriera, boh, vabbè, abbiamo sbagliato tutto davvero. Antonetto ha detto fra 20 anni saremo tutti diventati tipo Malgioglio, tutti truccati, vestiti da donna con la borsetta, capito? Se no vai da su una parte. Non penso proprio. Ti auguro bene. Cazzo, le immagini, non è una bella cosa da vedere, che parlo almeno personalmente, come Malgioglio, come Platinette, tutti mezzi e mezzi, tutto, di tutto un po'. Ma carità, cioè, la minavano da bere, la minavano da pista, poi gentaglia tra Troione e Bamba. Su che andiamo? È vero, io metto subito cambiato ormai, ormai queste cose sono sdoganate. Guarda che è un periodo che tutti i flusci che lavorano in televisione stanno facendo i soldi, hai visto che adesso mi sembra sulla 8 c'è un programma di tutto flusci che si mettono a fare fare vestiti, cioè figurati tu, cazzo, tutti i flusci stanno facendo i soldi, cazzo, in televisione, tutti, ma quindi uno che non sia ricco. Abbiamo sbagliato tutto, doppiamente. Non si dice flusci, si dice diversamente eterosessuali. Spero. Antone, qua siamo in periodo di, come si chiama, politically correct, bisogna essere edulcoranti, bisogna essere ipocriti, capito? Non puoi parlare con termini troppo chiari. Fra poco mi sa che andiamo a dare, ci vestiamo, andiamo a dare il culo fuori, cazzo, almeno guardiamo qualche cosa. Quando ti fermano le carabinieri, documenti, io sono maschio, mi quello che credi, sacca l'avviatti. Tra un po' non si potrà scrivere più il sesso nei documenti, perché adesso ci sono gravi problemi, ci sono i maschietti, le femminucce e gli altri che non sono né una né l'altra. Che cioè macchini? Poi, vabbè, io sono di labbia vedute, non più di tanto, però, Gianni, mi hanno rovinato anche Star Trek, cioè Star Trek Discovery, tutto, le relazioni, lesbo, vabbè, lesbo mi piace vedere, omosessuali no, tutto trans, attori trans, non lo so, non ero abituato, io ero abituato a Star Trek di... La serie originale, quantomeno quelle con Picard, ma non sono abituato a questo cambiamento, sono vecchio, mi sento vecchio, capito? Il nonno era di quelli antica, figurati, cioè, il nonno diceva, le donne hanno i pantaloni, gli uomini, no, al contrario, scusi, vedi, mi stanno già influenzando. Scusate, ma intervengo, là. Vabbè, purtroppo la deriva è già ben programmata, che sono già da tempo, insomma, e passa attraverso anche quei canali, magari dai, che sono, ma valori come la dignità e il pudore ormai sono stati quasi resettati, cazzo, ma ve la fai, cioè non, tutto il resto è veramente spettacolo, veramente di bassa macelleria, non ha a che fare con la dignità umana e col pudore, no, il resto è a carità, no? Poi vabbè, quello non è che io me lo guardo lo stesso, quello che preoccupa, queste lobby, a parte sì, quella è propaganda, anche nei telefilm, anche con la storia Wachowski con Matrix, è tutto lo stesso personaggio, un po', non capisci se è uomo o donna, lei stessa era, come si chiamava, era i fratelli Wachowski, sono diventate le sorelle Wachowski, no, che non... Vabbè, scelte personali. Le lobby, si parlava di tipo in futuro di gente, di trans che vengono a farti educazione sessuale a scuola ai bambini, alle, non so se delle medie, delle elementari. Un trans. Non ti innandi, così gli confondono le idee, già lo sai, no? Che adesso puoi scegliere quello che essere, puoi scegliere se essere maschietto o femminuccia, non esistono più. Gli confondono le idee, capito? Anche adottare le coppie non miste, le coppie... Vabbè, già, perdonami, ma mi si sta impastando la lingua. Già capito, no? Manco per le medie, chissà la ogni presa per il culo, poi se c'è due madri o due padri, se c'è due padri poi la presa per il culo è, credo, quadruplicata, no? Già lo sai, sono crudeli i ragazzini, no? Vabbè. Mi sono infilato in un ginepraio, come si dice, vabbè, sarò vintage, ma rimarrò sempre nelle mie posizioni, certi valori non sono negoziabili, quindi poi il resto forse ne chiesto che li biasi, però io le cose le chiamo con il loro nome, da voi, con tutto il rispetto per il prossimo, ma non ha niente a che vedere con l'evoluzione dell'entità umana, sono solo pagliacciate e bacia. Oh yeah, vabbè, dai, un altro paio di passaggi e poi vi saluto, avanti a chi tocca. Sì, adesso rilancio Andrea, e poi è tutto ostentazione, questa storia di queste nuove mode, tutto ostentare colori arcobaleno, cioè vivitela per i cavoli tuoi, una relazione se te la devi vivere, ma questo ostentare, poi vabbè dietro c'è tutta i soliti che tirano i fili, tirano l'acqua al loro mulino. Vai Andrea. Cappa, no, sono d'accordo con te. Io quando ero, sono stato fuori diversi anni e ho conosciuto diverse persone che erano diverse, da ognuno aveva i suoi gusti, ma quelle per bene non ti dicevano nulla, lo scoprivi quasi per caso. E questa è l'ostentazione, cioè io quando parlo con una persona non me ne frega nulla se gli piacciono i maschi, le femminucce, che cosa penso, che religione ha. Se una persona è in gamba rimane sempre una persona in gamba, hanno un'ideologia e tu ti cercano finché non ti trovano, che sei contro le loro tentazioni. Ma io mica me ne vado in giro in costumino da bagno e con i chioletti dei rasati, capito? Mica Antonello è pratico, come lui andava a trans sempre, brasiliani. Andieri. Ma non male che Antonello è di spirito, mi. Oi, oi. C'erano due l'altro giorno tornando in macchina da Prodotore a Coso. Sono passato da Santa Maria, c'erano due, uno a culo nudo. Qui c'è una casa di Paoletto, mi. Subito, vieni, sì, aspetta. Mi stava mandando la cima, mi stava tenendo la cima qui a attaccarmi. Ma non ti nandi. Pericoloso è quello lì. Ma quale cima però? Quella cima, una specie di, come lo vuoi chiamare, la gomena, una gomena, me l'ha lanciata. Vieni, no, ciao, ce l'ho a fare. Oh, yeah. No, a parte gli scherzi, con le chiappe fuori, c'era tipo un perizoma, ma c'era il culo nudo per attirare. Vabbè. Oh, yeah. Roba di delirio e di deriva, fa caridare. Cosa volevo dire? Ah, per Marco, sto utilizzando il Galaxy Uranus col microfono originale. Come mi ascolti, Marco? Bene, piuttosto bene direi. Galaxy Uranus era quello di... Sì, era quello. Sì, bene, ti ascolto bene. Sto usando naturalmente un baracchino non convenzionale, quindi la timbrica è un po' più, tonalità più calda. Comunque ti ascolto molto bene. Bene, Meda. Io volevo sapere più o meno il tuo parere. Sì, vabbè, me l'ha dato Eugenio, dai. Gli ho dato il portatile dell'Alan 38, abbiamo fatto il cambio e ne ha dato l'Uranus. E quindi alterniamo l'Uranus al Jupix, dai. Bene, Meda. Cazzo, le folate di maestrale non si sprecano. C'era Boomerang che stasera forse le 6:30 era una biscia allucinante, speriamo che tenga anche stanotte. E niente, non so le vostre in che condizioni sono. Allora qua almeno prima di oggi non ho guardato, però qua tutto, cioè, c'è stata ecatombe di antenne nei mesi scorsi, non ecatombe, però almeno uno o due sono scese. Questa sta sempre dritta, tre radiali, ci sono tutti, è incredibile, guarda. Adesso sto parlando, manco detto, domani guardo sul tetto, la trovo a 90 gradi l'antenna, non si sa. No, a parte gli scherzi, stazionari, uno sta uno, non si muove proprio, quindi presumo ci sia ancora tutta. Avanti Alessio. C'è, tranquillo, già c'è. Antenna, andiamo si piglia così. No, la cosa che mi lascia un po' perplesso è che rispetto a quando stavo ascoltando, che ero in cucina, no? Stavo facendo roba, il QRM è diventato zero, QRM zero, come dire, una calma piatta quasi surreale, me. Non ho mai avuto QRM zero io qua, da tempo. Sarà la quiete prima della tempesta, me. Io quel me ci ho lo stesso, la verità. Siamo a posto, lo siamo. Infatti ho detto, ma io controllo le stazionarie, ho detto, c'è qualcosa che... QRM zero, zero. Ho detto, quiete della tempesta, doppio senso, non ci manca solo... Io aspettavo l'asteroide, no, preferibilmente, ma anche una guerra nucleare mi va anche bene, a mettere un po' di pulizia, a fare un po' di pulizia. Dove sono i russi, le spie russe sono. Caro Gianni, e tu sei ottimista per questi sviluppi oppure lo vedi male? Aspetta che mi sono spostato un attimo, che mi hanno chiamato, puoi ripetere il quesito? Con questi sviluppi di Putin, che è sempre annesso la Donbass, minaccia, sembra troppo determinato, sei ottimista o sei pessimista? Se l'Europa ha già detto qua o si fa l'Europa o si muore, non qualcosa del genere. Personalmente, non è tanto l'avatar di Putin o l'avatar di quel video, sono tutti avatar. Il problema è di tutto ciò che si muove dietro, di quello che non si vede, che preoccupa. Lì ci sono un sacco di interessi, territori, risorse naturali, gas e quant'altro. La storia purtroppo la si dimentica molto facilmente, poi ci danno a bere che le cose sono successe così per caso, ma ci sono altri piani in gioco, dai, quindi non ho... Vabbè. Poi ci danno a bere tutto quello che vogliono. È un casino, perché certe cose se raggiungono certi livelli non convengono a nessuno, capito? Purtroppo sono sempre i poveracci che ci rimettono, quindi i galoppini, dai, chiamiamoli così, per definire quelli sacrificabili, dai. Sì, anch'io in realtà ho detto lo stesso, nessuno c'è, per un conflitto serio qua ci perderebbero tutti, però la stupidità umana, non ha confini, vabbè, tanto non possiamo fare niente, che ne parliamo o non ne parliamo, non possiamo fare niente, proprio, siamo con le braghe calate, soprattutto Pomponio, che mi piace. Sicuro. Poi Antone, scherziamoci su, io quasi, 10:15, che facciamo, chiudiamo, anche perché qua in casa mi si invita a parlare più piano, perché sono un po' a voci, scusate di parlare, però dovrei parlare così, mi piano, sono un pacazzo, cioè non così che non sono al mercato, mi sentite magari uguali in radio, che io parli piano e più di tanto qua non spinge, questo è, dopo tutto è un mic normale, non è un privilegiato. Va bene così Marco, modulazione perfetta. President McKinley, quelli tutti digitali, menu sotto menu. È meno pratico, è di quelli classici, però non lo so, mi attirava, ma ce l'ho da un po', questo non è che... E torniamo sempre ai presidenti. Aspetta che abbiamo lasciato Andrea in parcheggio, avanti Andrea. No, sto ascoltando con piacere. No, mi sto guardando questo bel modello del presidente McKinley, molto carino, anche dove ti ci trovi? Beh, benino, diciamo che è un po' rumorosetto in determinate installazioni, infatti mi ero stupito dell'assenza di QRM. Però la modulazione dopo tutto è abbastanza chiara, ha 1000 canali, mi pare vada dai 24,7 ai 30.100 MHz, AM, FM, SB, le solite opzioni, autosquelch, memorie, vox addirittura, scansione, eco, autoascolto, beep, regolazione di tono, puoi andare a sintonia quasi continua, quasi continua, rosmetro incorporato, tante menacce, pochi tasti c'hai, 10 una funzione, 4 tasti, no 5 sono, infatti è un po' un macello ricordarci la prassi, cioè è carino dai. Cazzo, roba di presidente. quando è che faranno il presidente Mattarella? Immaginati che bel baracchino. Sì, molto bello, anche un bel display ho visto, molte indicazioni. Sì, il presidente Mattarella. Poi avanti Pompo. Ehi, sto guardando qui su Google, scarpe impermeabili resistenti all'usura, scarpe antifossilistiche robuste di alta qualità, cazzo belle, cazzo. La tua fare è cornuta, cioè siamo a posto. Io stiamo un po' sfumando, la soglia di attenzione cala, almeno da parte mia, la mia orbita sta un po' decadendo e quindi forse è meglio chiudere. Caspita, ero entrato a salutare alle 7:30 mi pare e sono ancora qua. E un po' mi sto 7, 8, 9 e 10 quasi, e vabbè, per oggi abbiamo parlato abbastanza. E quindi io chiuderei. Dai, ciao Andrea, Gianni, Pomponio, noi sentiamo fra qualche mese, dai. Sicuro. Fra qualche mese andiamo con le scarpe, andiamo in Ucraina. Fate sentire prima. Ma a me la vodka non piace, te lo dico già. Ehi, vabbè, già faremo la birra con la benzina capito? Dei militari russi. Col carburante avio, distillando per avere una beozia in tempi di guerra. Ma per carità, guarda. Allora, facciamo così, facciamo. Va bene, dai, adesso chiudo anch'io, mi sono tornato a sera a baracchino, sono poi adesso domani mattina, mi voglio sistemare prima di tutto il 2009, che in FM c'ha problemi, e poi regolo questa trimmer del Saturn-Ecco, così lo splitter rimane fermo, secco e pesto, perché a volte sale, scende, si oscilla. Così se c'è da cambiare lo cambio e sono a posto. Vi saluto anch'io allora, ben sentiti, alle prossime, ha fatto piacere, buonanotte. Oggi abbiamo un po' sventiato, abbiamo parlato un po' di tutto e di niente per passare il tempo. Sì Antone, io questa cosa dei 3009 dell'FM l'ho notata, guarda, io due 3009 tolti dalla scatola in FM dovevi girare sempre il fine tutto a sinistra per ricevere bene, è come se nella ricezione FM fosse spostata. Quello di Gianni è lo stesso, che era il Jopix, tolto dalla scatola in FM, addirittura lì c'è qualcosina anche in trasmissione da migliorare. Non so se fosse la deviazione eccessiva in trasmissione. Invece i famosi Tornado di una volta, come si chiama quello con l'eco che ti avevo dato, Antonio, quello grigio, con il 4000 eco, quando li compravi all'epoca, quindi i nuovi andavano meglio in FM, invece questi sembra che proprio li abbiano, anzi che non abbiano curato affatto lo stadio di ricezione o la frequenza, cioè gli hanno fatto una taratura sommaria, ma sommaria che più sommaria non può essere. Quella che manda laterale il 3009 con l'omologato era in USB, era proprio fuori, l'ho dovuto ricentrare io con mezzi di fortuna in trasmissione, sto dicendo, però in FM resta questo. Su tutti gli esemplari che ho avuto dei 3009 simili di produzione nuova, ho sempre avuto questo problema della ricezione in FM, e non solo, ma è anche stretto. È stretto in ricezione, perché se c'è qualcuno che ha l'emissione larga in FM, lo sento tutto strappato, invece con altri apparecchi tipo i CRT, i President, ma anche roba Intech e Midland, li sentivo già meglio. È un problema del 3009. So che se gli devi fare un affare e far fare una taratura come Dio comanda, ci vuole un po' di tempo, insomma ci vogliono strumenti buoni. Capito, non è roba che posso fare io o tu. Penso domani io provo con questo. Con cosa usciva molto bene? Con Kenwood, capito? Perché come ti spostavi sentivi il sibilo, capito? Allora prendevo e regolavo, c'era un trimmer in pratica nel Saturn Echo che rimane sotto alla come si chiama, frequenzimetro. Però non so se questo qua ce l'abbia il 3009, devo controllare, ma penso che ce l'abbia anche quello. Regolavo quello, era perfetto in FM in tutti i posti. Adesso vediamo un po' domani mattina. Lo apro il 3009 e vediamo il trimmer del che c'è lì all'interno. E vediamo qual è. Una volta che so qual è, te lo dico e... Basta che ti accendi un apparecchio di quelli a banda che è perfetto, centrato, te ne accorgi subito, ti metti un paio di cuffie come non senti più il sibilo. Anche c'ho quel problema lì. Cioè in pratica adesso quando io vado in FM mi devo spostare col clarifer, quello piccolino, ho tutto da una parte e tutto dall'altra. Meno male in trasmissione è a posto, è solo ricezione il problema, hai capito? Adesso domani vediamo, prima li passo un po' di CRC per vedere se sono le manopole, se sono le manopole si scruzza il CRC all'interno e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Già ti faccio sapere qualcosa, così almeno te lo fai e non è quello il problema. O se no ti dico quale componente, ti faccio la fotografia, ti metto un cerchietto e sai cosa devi toccare. Sì, anche Gianni conosce quel tipo di problema. Questo da nuovi e poi ti lava la scatola, quindi sì, un problema di centratura sommaria c'è, però un problema in FM anche di banda passante, perché anche se centri una stazione, se c'è uno con l'FM troppo oltre i 2 kHz e mezzo, e certi girano la manetta e li senti male, senti strappati. Invece gli altri apparecchi di altre marche sono più di bocca buona l'FM, riesci ancora a sentire uno che è molto largo di emissione l'FM, cioè è un problema di banda passante in ricezione, come vuoi che te lo spieghi, e lì non so dove si agisca. Antonello, va bene, allora io rilancio Gianni e chiudo di nuovo. Antonello, ciao, buona serata. Andrea, idem con patate. Gianni lo stesso, riprendi Gianni, buona serata a tutti. QRT. Ehi, bene Meda, sì, confermo quello che ha detto Marco, anche il Jopix è un po' che le racconto il Zoio, è svariato come si dice. Ho fatto un test praticamente, una sorta di paragone con l'Uranus è abbastanza preciso. Sì, probabilmente come dice Marco è un difetto congenito della piattaforma 3009, Jopix e quant'altro. Va bene, dai, anche io vi saluto. Aspetta un attimo. Scusate l'entrata a gamba tesa. Aspetta. Comunque grazie per il piccolo consiglio. Bentornato Marco dopo dopo un po' di bianco. Saluto Andrea, dai. Saluto Alessio e niente, tutti gli ascoltoni. Ci sentiamo ci sentiamo alle prossimine, come si suol dire, dai. Buona serata a tutti, grazie per la compagnia e niente, dai, a Sibiri. Un attimino, un'ultima cosa già. Sì, qua praticamente poi sicuramente per la selettività in FM, no, la banda passante, qualche modo, sicuramente bisogna modificare qualche componente, qualche filtratura, no, per avere una ricezione più larga in FM, perché in AM non te ne accorgi, ma in FM è una cosa più stretta, più delicata, capito? E deve rispondere a certi valori, va bene, ma infatti mi chiedo dove sia il controllo qualità, perché tu su queste radio baracchini vedi sempre QC passed, ma mi sa che qua controllo qualità non ce n'è affatto, c'erano tutte tarature sommarie. Ok, dai, di nuovo Gianni, buona serata a tutti, corretti, vai Andrea. Ciao, vi saluto anch'io, allora è stato un piacere, ciao Gianni, ciao Alessio, ciao Marco, alla prossima e auguriamoci tutto il bene possibile. Ciao, buonanotte a tutti, a domani. Ciao ragazzuoli, fate da bravi, eh. Asibiri, good night.